Sei in onda. Sì, ciao, ciao a tutti e tutte. Sì, noi abbiamo appena adesso occupato un nuovo spazio su via Ostiense 124, che sarà un'occupazione che vuole durare nel tempo, perciò non è una roba dimostrativa. Stiamo parlando di un posto che era l'ex ACEA, abbandonato al degrado da qualche anno, e di sopra, insomma, il progetto che abbiamo è quello di farlo diventare una casa dei precari, uno studentato. Siamo qui con un gruppo di una sessantina di persone, tra cui appunto molti saranno i nuovi abitanti, e vorremmo che questo spazio appunto venisse visto e letto dentro la giornata, che voleva darsi una lettura di sciopero sociale in qualche modo. Quindi se è vero che ci siamo detti siamo stufi di fare le passeggiate, le sfilate, consumare le scarpe, le strade, stiamo oggi dando una prima risposta di proposta, al di là appunto della scesa in piazza nell'ambito della riappropriazione, che parte dalla liberazione di un pezzetto di sfruttamento, perciò di ripresa diretta e indiretto, che è quello appunto dell'occupazione di casa. E si immagina che questo spazio possa essere appunto una roba sia flessibile, quindi per chi appunto magari studente o non solo ha bisogno di abitazione e non riesce dentro la città di Roma a trovare nessun'altra modalità, perché appunto conosciamo la situazione degli affitti e tutto il resto, ci piace leggerlo come uno spazio che venga visto e vissuto un po' da tutti e da tutte. Perciò oggi pomeriggio lanciamo un'assemblea pubblica alle 6, dove invitiamo tutti e tutti a passare. Poi questo spazio appunto vorrà essere anche un luogo dove si continuino a fermentare esperienze del genere, perciò pensare che a breve se ne andrà a fare un'altra simile di occupazione, e allo stesso tempo qui dentro possa nascere anche piccoli spazi di socialità che non vogliono essere appunto forme di welfare sfigato, di servizi mancanti, ma più che altro luoghi di possibilità del comune e di sperimentazione. Quindi diciamo questa esperienza vuole darci una connessione, una continuità con quella che è l'esperienza del Cinema America e di Repubblica in quei giorni. Basta, quindi. Allora il discorso dell'Occupy comincia a essere non più solo uno slogan, ma qualcosa gli si dà corpo, gli si dà concretezza, insomma. Quindi la città, in questo caso, riprendiamoci, riappropriamoci anche della città in diversi aspetti. Sì, sì, certo. Poi, nel senso, per esempio, oggi questa nello specifico di occupazione è nel pubblico, nel senso che è uno spazio pubblico, abbandonato al degrado, anzi manco abbandonato al degrado e basta. C'è sopra in atto un ambito di solite speculazioni. Qui vicino, per esempio, veniamo a sapere che l'ex stabile fortezza di Acea è tenuta in affitto con la spesa di 1,5 miliardi l'anno da parte della regione, un luogo esattamente cioè vuoto, totalmente vuoto e inutilizzato, dove adesso andando appunto a farci il bottino quasi tutti i nomi dei costruttori che conosciamo, cioè le aziende da in Navarra piuttosto che appunto il solito che sta a Girone, eccetera eccetera. Quindi c'è un ambito che è quello del demanio pubblico della città di Roma, che appunto conosciamo e sta essendo venduto tutto. L'anno scorso c'è stato l'esempio del deposito ex Ninci, deposito ADAC, certo. E quindi tutta l'esperienza ADAC, quello delle caserme da Porto Fluviale piuttosto che le altre, insomma tutta questa parte di demanio che viene continuamente svenduta ai privati. O per assurdo stiamo parlando di questo qui accanto su via Ostiense, che viene tenuto addirittura in affitto dalla regione. A costi di miliardi, nel senso, per fare niente. Questo è il punto, dove ci sono, poi ce ne sono moltissimi, nel senso è uno dei allora dati. Ricordiamo a ascoltatori e ascoltatrici, l'occupazione è in via Ostiense 124 e oggi alle 18 voi convocate un'assemblea aperta a tutto il movimento, tutto il movimento, giusto il tempo di dare una pulita, e siamo pronti ad ospitare tutte le persone, insomma. Va bene, quindi buona giornata, speriamo che continuino in questa modalità anche le prossime giornate di piazza e anche appunto gli studenti, le varie componenti giovanili, ma anche che si svegli tutto il resto, appunto, delle generazioni che mancano all'appello in piazza questi giorni, e che continua a portare questo elemento di possibilità oltre il capitalismo, detto proprio così. Va bene, grazie buona giornata. Buona giornata. Ciao, ciao.